sole nel cielo marshmallow. Gioventù bruciata in ostello. Fa buio nelle retrovie, ma se arrivi tu torna un sole yellow. Forse tu hai ragione, io sbaglio. Mi dici dove corri John Rambo. Diversi come techno e tango. Easy rider spando. Ehi hey, baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Ehi hey, baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress, no no no. Serata illuminata, Santa Britney liberata. Forse è tutto un karaoke in playback. Non c'è più feeling, no funk, no feeling, no punk. Dormivi, no doubt, tanto so che lo sai. Hey baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Hey baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress, no no no. No stress, no no no. Hey baby, no stress, no no no. No stress, no no no. E vedi che non serve correre. È vero che oggi danno nuvole, anche sentirci alieni a volte ci fa bene, che il buio se ne va. Hey baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress, no no no.